Letture di Radio 24. Nell'arco di un secolo, gli italiani hanno guadagnato 30 anni di vita e gli ultracentenari toccano quota 15.000 e molti, sorprendentemente, sono campani nonostante i tanti fattori di invivibilità. Certo, un grande traguardo quello della conta dei centenari, ma che al tempo stesso pone anche non pochi problemi. Longevi sì, giurassici no. È il dilemma di un'umanità che vive sempre più a lungo. Bel paese in testa. Nell'arco di un secolo, infatti, gli italiani hanno guadagnato 30 anni di vita e l'augurio di toccare i 100 è già diventato realtà per 15.000 dei nostri connazionali. Fra questi ci sono molti campani, 1.066 per la precisione, 347 maschi e 719 donne. A colpire è anche il fatto che più della metà è distribuito fra Napoli e provincia, numeri che contrastano con i tanti fattori di invivibilità della città, dai rifiuti al degrado. Tornando ai dati nazionali, dei 15.000 ultracentenari, ben 12.136 contro 2.838. Uno score impressionante, che ci proietta in vetta alle classifiche mondiali insieme al Giappone. Un grande traguardo e al tempo stesso un grande problema. Campare cent'anni, infatti, può essere una cosa meravigliosa, a condizione di non viverli da centenari, ma al massimo da settantenni. Come dire che più della longevità in sé contano salute e qualità della vita, che non dipendono solo da fattori genetici, ma soprattutto da una serie di ragioni sociali, emotive, ambientali. Sono questi i veri reattori in grado di rilanciare a mille la spinta vitale di una persona e riempire di senso i supplementari della vita. Il grande Seneca, autore di quell'elogio della vecchiaia felice che è il De Senectute, diceva che l'esistenza è veramente lunga solo se è piena. In altri termini, la quantità di tempo vissuto è un falso problema. La vera questione è come e di che cosa lo si riempie. Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina nel 2008, sostiene che con ogni probabilità riusciremo a guadagnare ancora altri anni da vivere. Resta però il problema di cosa farne, di come spendere questo budget di tempo conquistato. Urgono strategie sociali e politiche per valorizzare questo nuovo capitale umano e per metterne a frutto le abilità. Perché oggi la terza età, che si avvia a diventare quarta, non ha più nulla in comune con quella che una volta si chiamava vecchiaia. La nostra idea dell'età non corrisponde più a quel timer che avevano in mente i nostri nonni e che scandiva inesorabilmente le tappe della vita in maniera uguale per tutti. L'infanzia spensierata, la giovinezza turbolenta, la serietà della maturità e la saggezza rassegnata della vecchiaia. Oggi ciascuno ha il suo tempo, che è l'algoritmo della sua identità mente-corpo. Abbiamo una serie di profili d'età disponibili e intercambiabili. Possiamo essere insieme maturi e adolescenti, troppo anziani per lavorare e non abbastanza per andare in pensione, non più vecchi insomma, ma diversamente giovani. Oltretutto, nell'era della formazione permanente, non si può pensare di aver imparato a vivere una volta per tutte. Sarà necessario ricombinare in maniere nuove, utili a sé e alla collettività, quelle aree della vita che una volta erano rigidamente separate. Altrimenti la longevità rischia di trasformarsi nell'incubo infinito di un tempo che non si sa come ingannare. Soprattutto senza cullarsi nel sogno di un'eterna giovinezza, che sarebbe un miraggio, un lifting dell'anima prima ancora che del corpo. E se compare qualche ruga, non facciamone un dramma. In gioventù Matusalemme era un uomo forte, ma, come dice Isaac B. Singer, passati i 900, non si è più quelli di una volta. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Centenari nonostante questo Sud, di Marino Niola, dal Mattino di giovedì 7 aprile. Letture di Radio 24. Quanto Quante volte vi sarà capitato di osservare su Facebook i video e le foto delle serate dei vostri amici reali o virtuali? Se la visione di quei materiali vi ha insinuato il dubbio che non vi stiate divertendo abbastanza, non preoccupatevi, la sindrome è molto più frequente di quanto si pensi. I miei ex compagni italiani della scuola europea di Bruxelles si ritrovano spesso in un ristorante a Roma a 7 ore di volo da qui. Istantaneamente le foto delle loro simpatiche serate riprese sugli iPhone mi raggiungono, prima sulla mia email e poi evidenziate grazie a Facebook e Twitter. È un modo per rendermi partecipe delle loro allegre rimpatriate? O invece mi rendono ancora più tangibile la distanza, l'assenza? Ora scopro che la mia è un'esperienza universale. Ha perfino un nome clinico, la nuova nevrosi creata dai siti sociali. Si chiama FOMO. Le iniziali di Fear of Missing Out, la paura di essere tagliati fuori. Tanto più acuta se l'evento di cui i vostri amici vi mandano testimonianze in tempo reale si svolge addirittura nelle vicinanze. E voi non ci siete. Una serata di pioggia mi stavo impigrendo al calduccio del mio salotto, pronta a guardare un film in TV, racconta Jenna Wortham nella sua columna tecnologica sul New York Times, quando improvvisamente il mio iPhone ha cominciato a lampeggiare. Erano i segnali che mi arrivavano dai miei amici attraverso diversi siti sociali. 3 di loro stavano andando in un locale a sentire musica. Altri mandavano immagini da un ristorante. Improvvisamente il piacere della mia serata domestica e solitaria è stato guastato dal rimpianto per quello che avrei potuto fare. Facebook, Twitter, Flickr, Hank, Foursquare, Instagram. Il nostro mondo è stato invaso da siti specializzati nell'informarci automaticamente, minuto per minuto, di quello che fanno gli amici, i conoscenti, i colleghi di lavoro, più le celebrità e i VIP che vogliamo seguire. Ma anziché renderci davvero più sociali, questi strumenti tecnologici possono accentuare un senso di solitudine, di opportunità mancate. Uno degli studiosi che denunciano il lato oscuro della socialità digitale è Dan Ariely, docente di psicologia alla Duke University e autore del saggio Predictably Irrational. Secondo Ariely, quando cominciamo a consultare le pagine Facebook dei nostri amici, si insinua il tarlo del dubbio, la preoccupazione che stiamo prendendo le decisioni sbagliate su come passare il nostro tempo libero. L'immediatezza di quei segnali è diversa da quel che accadeva in tempi pre-Facebook, quando a lunedì mattina fra colleghi ci si scambiavano resoconti su come ciascuno aveva passato il weekend. L'immediatezza dà una forza diversa ai raffronti. È in questo preciso istante, dice Ariely, che vedi la foto dei tuoi amici proprio mentre sono in un locale a bersi una bottiglia di vino, senza di te. E non puoi impedirti di pensare che le cose potrebbero essere diverse. Questo non riguarda solo la mondanità, il tempo dedicato ai divertimenti. Sui siti sociali dilaga anche l'esibizione dei propri successi, nella vita di coppia, negli studi, nell'attività professionale. Un tempo accadeva solo in momenti determinati, per esempio proprio un ritrovo tra ex compagni di scuola, di fare il bilancio della propria esistenza confrontandosi con gli altri. Adesso bastano 2 clic sul computer o sul display del cellulare per vedere apparire sullo schermo la vita degli altri e sentirsi costretti a fare paragoni che possono essere stressanti o dolorosi. Un'altra studiosa delle relazioni sociali nell'era digitale, Sherry Tarkle, del Massachusetts Institute of Technology, ha coniato per un suo studio il titolo Alone Together, insieme da soli. Non è proprio una novità. Negli anni 50 il saggio sociologico più venduto in America fu La folla solitaria, di David Riesman, che già allora analizzava le nuove forme di solitudine in una società dove i mezzi di comunicazione di massa sembravano facilitare i legami sociali. Di fronte a una nuova tecnologia, sostiene la Tarkle, siamo vulnerabili, immaturi, ci lasciamo dominare invece di essere noi a dominarla. Contro la sindrome FOMO, la Tarkle propone di cominciare con piccoli esercizi quotidiani. Ogni tanto separiamoci dal nostro smartphone per riprenderci il controllo su noi stessi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Sindrome Facebook, quando troppi amici ti fanno sentire solo, pubblicato dalla Repubblica di lunedì 11 aprile, a firma di Federico Rampini. Nei giorni scorsi, la madre di Federico Aldrovandi, ragazzo picchiato fino alla morte da quattro poliziotti condannati, è stata rinviata a giudizio per la presunta diffamazione di uno dei pubblici ministeri che si era occupata del caso. Patrizia Moretti, questo è il nome della madre di Federico, aveva espresso le sue perplessità riguardo il modo di indagare del PM Maria Emanuela Guerra. Questo rinvio a giudizio, però, come osserva Luciano Ferraro sul Corriere della Sera, fa trasparire una giustizia chiusa in se stessa. C'è una madre a Ferrara che ha fatto condannare i quattro poliziotti che hanno picchiato il figlio fino alla morte, il 25 settembre 2005. Il ragazzo si chiamava Federico Aldrovandi, aveva 18 anni. C'è un giudice a Mantova che ha rinviato a giudizio quella madre, Patrizia Moretti. Il giudice ha deciso che va tutelato l'onore del pubblico ministero che si occupò del caso, Maria Emanuela Guerra. La PM si è sentita diffamata. Patrizia Moretti disse che il fascicolo sulla morte del figlio era ancora vuoto e che la PM era stata oggetto di un procedimento disciplinare concluso con una assoluzione davanti al CSM. Nel caso Aldrovandi, le lacune delle indagini e i tentativi del depistaggio vennero alla luce quando la madre del ragazzo aprì un blog su internet chiedendo verità. Lo fece con tale forza da ottenere attenzione da tutta Italia. Intervenne anche il presidente della Camera Fausto Bertinotti. Una lunga battaglia fino al 6 luglio 2009, quando i quattro poliziotti del pestaggio sono stati condannati per eccesso colposo di legittima difesa. E il PM? Ecco le domande che la madre le ha rivolto. Perché il corpo di mio figlio è rimasto per ore sulla strada e lei non è andata sul posto? Perché, se dice di essere stata ingannata da chi fece indagini a sua insaputa, non sequestrò l'auto della polizia con la quale, per la versione ufficiale, si fece male mio figlio? Perché non ha sequestrato i manganelli rotti dalla violenza sul corpo di mio figlio? Perché non ha interrogato i poliziotti? Il giudice di Mantova, che ha rinviato a giudizio questa madre, ha sicuramente agito nel rispetto del codice. Eppure il futuro processo contro Patrizia Moretti, che inizierà il 1 marzo dell'anno prossimo, appare come un'azione di autotutela di categoria, una difesa dell'onorabilità della toga come valore superiore all'onorabilità del cittadino che denuncia. La giustizia che bussa alla porta di casa, identifica e trascina sul banco degli imputati questa madre che ha perso il figlio per le botte di rappresentanti dello Stato, sembra una giustizia chiusa in se stessa. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Una giustizia che si chiude in se stessa, di Luciano Ferraro, dal Corriere della Sera di giovedì 14 aprile.